mio sole, nel mio cuore, il più grande amore sei per me. Vita, non saprei più vivere senza te. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol cantare la canzone dell'amore. Ramona, sogno i baci che m'ha dato la tua bocca di velluto sul mio labbro appassionato. Sei tu che m'hai fatto innamorare, sei tu che non so dimenticare. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol cantare la canzone dell'amore. Ti guardo con languore, sul tuo viso vedo il paradiso dell'amore, nel tuo sguardo so dimenticare ogni dolore. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol cantare la canzone dell'amore. Ramona, sogno i baci che m'ha dato la tua bocca di velluto sul mio labbro appassionato. Sei tu che m'hai fatto innamorare. Sei tu che non so dimenticare. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol sognare tutti i baci accanto.